I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Dopo qualche giorno di tregua, la Grecia è tornata di nuovo a condizionare l'andamento dei mercati finanziari. Atene ha lanciato un allarme sullo stato di salute delle casse dello Stato ed è ripreso il braccio di ferro con Bruxelles sul terreno delle riforme che la Grecia dovrebbe garantire per continuare a ricevere gli aiuti della comunità finanziaria internazionale, circostanza della quale si è discusso anche a Washington nel corso del G20. Grande incertezza, quindi borse in discesa soprattutto nella seconda parte della scorsa settimana, spread in risalita. Quello italiano ha ritoccato i 146 punti base. Mercoledì sotto i riflettori è finito di nuovo Mario Draghi, aggredito peraltro e per fortuna senza conseguenze, durante l'inizio della conferenza stampa dopo il direttivo della Banca Centrale Europea, riunione in cui è stato ribadito che il quantitative easing va avanti. Negli Stati Uniti è in corso la stagione delle trimestrali, il mercato azionario ha visto registrare un nuovo record, quello dell'indice delle società a piccola capitalizzazione, il Russell 2000. In Italia è stata la settimana dell'ottavo collocamento del BTP Italia. Il Tesoro ha raccolto con questa operazione complessivamente 9 miliardi e 300 milioni di euro. Per quello che riguarda la borsa, alcuni temi di piazza affari da monitorare. Intanto in casa Fiat ci sono stati i buoni dati sulle immatricolazioni europee. La società ha tenuto la sua prima assemblea dei soci ad Amsterdam e Sergio Marchionne ha presentato un piano di 4 anni che prevede bonus ai dipendenti legati alla produttività. L'assemblea degli azionisti di Monte dei Paschi ha approvato il nuovo aumento di capitale da 3 miliardi, il gruppo valuta delle aggregazioni e il mercato si interroga già su chi potrebbe candidarsi per sostituire alla presidenza nell'uscente Alessandro Profumo. Per quello che riguarda gli avvenimenti della settimana segnaliamo la fiducia delle imprese tedesche, molte statistiche sul manifatturiero internazionale, le trimestrali fra cui quella di Facebook, Amazon, Coca-Cola e Microsoft, ma soprattutto venerdì un altro importante appuntamento con la Grecia, un nuovo Eurogruppo su questo argomento. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Serviva purtroppo l'ennesima tragedia del mare in Sicilia per risvegliare l'Europa dall'indifferenza e dal cinismo con cui la questione degli immigrati clandestini è stata finora affrontata. Davanti allo sdegno internazionale, suscitato da un bilancio che potrebbe arrivare fino a 700 morti, il Parlamento europeo, la Commissione, ma anche gli azionisti di peso dell'Unione europea come la Germania e i paesi dell'Europa centrale, hanno finalmente accettato un principio. Quello dei migranti non può essere un problema soltanto italiano. Non soltanto perché poi a conti fatti molti degli immigrati clandestini si trasferiscono effettivamente poi a vivere in Germania, in Francia, in Belgio e in Lussemburgo e così via correndo per l'Europa, ma soprattutto per un motivo: se l'Europa unita, una risposta unitaria deve venire sulle grandi tematiche che non possono essere soltanto quelle dell'unione bancaria o dell'unione finanziaria, ma soprattutto quello di uno stare insieme che in questo momento sembra privo di regole. Con la questione greca ancora aperta, cioè l'incapacità dopo 5 anni di dare una soluzione, ora l'ennesima emergenza. Per l'Europa è un po' una chiamata alle armi: o ci si siede intorno a un tavolo e si decide su nuove regole, come affrontare i problemi comuni, o altrimenti il rischio delle emergenze continue sarà sicuramente quello che sommergerà l'Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.